Capitolo 53. I dattili. Taluni narrano che mentre stava partorendo Zeus, Rea premette le dita al suolo per alleviare la sofferenza delle doglie, e dal suolo balzarono fuori i dattili, cinque femmine dalla mano sinistra di Rea, cinque maschi dalla mano destra. Si ritiene tuttavia generalmente che essi vivessero sul monte Ida in Frigia, molto tempo prima della nascita di Zeus. E altri dicono che la ninfa Anchiale li generò nella grotta del Ditte presso Oasso. I dattili erano fabbri e furono i primi a scoprire il ferro nel vicino monte Berecinzio. E le loro sorelle, che si stabilirono a Samotracia, suscitavano grande stupore con le loro opere di magia e iniziarono Orfeo ai misteri della dea. I loro nomi sono un segreto ben custodito. Altri sostengono che i dattili erano i cureti che protessero Zeus fanciullo in Creta, e che in seguito si recarono in Elide e innalzarono un tempio per propiziarsi Crono. I loro nomi furono Eracle, Peonio, Epimede, Giasio e Acesida. Eracle, avendo portato un oleastro dalla terra degli Iperborei a Olimpia, indusse i suoi fratelli a disputare una gara in quel luogo e così nacquero i Giochi Olimpici. Si dice anche che Eracle incoronò Peonio, il vincitore, con un ramo di oleastro e che in seguito tutti dormirono su letti di verdi foglie d'olivo. In verità il vincitore dei giochi fu incoronato con l'olivo soltanto dopo la settima Olimpiade, quando l'oracolo di Delfi ingiunse a Ifito di sostituire appunto con l'olivo il ramo di melo usato fino ad allora come premio della vittoria. Acmone, Damna Meneo e Celmi sono gli appellativi dei tre fratelli maggiori. Taluni dicono che Celmi fu trasformato in ferro poiché aveva osato insultare Rea. I dattili personificano le dita e la gara olimpica indetta da Eracle è una favola infantile illustrata dal gioco di tamburellare le dita, pollice escluso, sul tavolo. È sempre l'indice che vince la gara. Ma il segreto patrimonio dottrinario orfico si basava su una sequenza di alberi magici, a ciascuno dei quali corrispondeva una determinata articolazione delle dita nel linguaggio segnaletico e una determinata lettera nell'alfabeto calendario orfico che pare fosse di origine frigia. All'oleastro corrisponde l'articolazione superiore del pollice, che si supponeva fosse sede della virilità e veniva perciò chiamata Eracle. Si dice che crescessero foglie dal corpo di codesto Eracle. Il dito medio corrisponde a Epimede, l'anulare dito medico corrisponde a Giasio. Nella chiromanzia occidentale Epimede è stato sostituito da Saturno e Giasio da Apollo, il dio guaritore. L'indice corrisponde a Giove o Zeus, che vinse la gara. Il mignolo, che corrisponde a Mercurio o a Ermete, è il dito magico. Nell'Europa primitiva alla lavorazione dei metalli venivano associate pratiche di magia. Ecco perché i fabbri attribuirono le dita della mano destra ai loro dattili, lasciando la mano sinistra alle streghe. La leggenda di Acmone, Damna Meneo e Celmi, i cui nomi si riferiscono alla lavorazione del ferro, è un'altra favola infantile che veniva mimata battendo l'indice sul pollice a mo' di martello sull'incudine e facendo poi scivolare tra loro la punta del medio, come se fosse una sbarra di ferro. Il ferro giunse a Creta, attraverso la Frigia, dalle lontane sponde del Mar Nero, e Celmi, in quanto personificazione del ferro fuso, fu di certo inviso alla grande dea Rea, patrona dei fabbri, il cui declino iniziò appunto con la lavorazione del ferro e con l'arrivo dei dori armati di ferro. La dea aveva ammesso soltanto la lavorazione dell'oro, dell'argento, del rame, del piombo e dello stagno, benché i frammenti di ferro contenuti nelle meteoriti avessero un valore inestimabile per via della loro origine miracolosa, e può darsi che una meteorite fosse caduta sul monte Berecinzio. Un blocco di ferro non lavorato fu rinvenuto in un deposito neolitico presso Festo, accanto a una statuetta d'argilla rappresentante la dea accovacciata, unitamente a conchiglie e a tazze per le offerte. Tutto il ferro dell'antico Egitto è meteorico, contiene un'alta percentuale di nichel ed è quasi inattaccabile dalla ruggine. In seguito all'oltraggio di Celmi a Era, il medio fu chiamato Digitus Impudicus. I giochi olimpici ebbero origine da una gara di corsa disputata tra fanciulle che si contendevano il titolo di sacerdotessa della dea lunare Era. Poiché tali giochi si svolgevano durante il mese Partenio, il mese della Vergine, possiamo supporre che in origine fossero annuali. Quando Zeus si unì a Era, quando cioè una nuova forma di regalità sacra fu introdotta in Grecia dagli Achei, una seconda gara di corsa venne disputata da giovanotti che si contendevano il pericoloso privilegio di sposare la sacerdotessa e diventare così re dell'Elide. Anche Anteo fece disputare una gara di corsa ai pretendenti di sua figlia, seguendo l'esempio di Icario e di Danao. I giochi si tennero in seguito ogni 4 anni, invece che ogni anno, e la gara di corsa tra fanciulle veniva disputata separatamente o 15 giorni prima o 15 giorni dopo i giochi veri e propri. L'investitura sacra conferita al vincitore dei giochi al momento delle sue nozze con la sacerdotessa ebbe un eco negli onori divini che il vincitore stesso continuò a ricevere nell'età classica. Incoronato con l'olivo di Eracle o di Zeus, salutato come re Eracle e ricoperto di foglie, egli guidava la danza in una processione trionfale e mangiava le carni del toro sacrificato nell'aula del consiglio. L'originario premio, una mela o un ramo di melo, era stato un simbolo di immortalità che attendeva il re quando fosse stato ritualmente ucciso dal suo successore. Plutarco, infatti, dice che, benché la gara di corsa fosse l'unica gara degli antichi giochi olimpici, vi si svolgeva anche un duello all'ultimo sangue, concluso cioè dalla morte del vinto. Questo duello viene ricordato dal mito che fa risalire i giochi olimpici alla lotta tra Zeus e Crono per il possesso dell'Elide, e cioè alla lotta che si svolgeva a mezza estate tra il re e il suo successore. Uno scolio a Pindaro, citando Comarco, dice che l'anno nuovo in Elide iniziava con la luna piena più prossima al solstizio d'inverno e che il secondo anno nuovo iniziava a mezza estate. Si può dunque presumere che il nuovo Zeus Eracle, cioè il vincitore della gara di corsa, uccidesse il successore dell'anno precedente, Crono Ificle, a metà inverno. Ecco perché Eracle istituì i giochi e diede il nome alla collina di Crono nella stagione in cui la vetta delle montagne era greve per la molta neve caduta. Pindaro. Nei tempi antichi Zeus Eracle veniva avvolto nelle foglie di quercia e riceveva il ramo di melo a mezza estate, poco prima di essere ucciso dal suo successore. Il ramo d'olivo selvatico gli veniva invece consegnato come segno di vittoria a metà inverno. La sostituzione del ramo di melo con il ramo di oleastro, un albero che tiene lontani gli spiriti maligni, implicò l'abolizione del duello all'ultimo sangue e la trasformazione dell'anno semplice, diviso in due metà, nella grande annata che iniziava a metà inverno, quando l'anno solare e lunare coincidevano in modo propizio per il matrimonio della luna con il sole ed era divisa in due olimpiadi di 4 anni ciascuna. Il re e il successore regnavano l'uno dopo l'altro o contemporaneamente. Benché nell'età classica la corsa dei cocchi, la cui origine risale secondo il mito alla gara di Pelope e di Enomao per la mano di Deidamia, fosse divenuta la più importante dei giochi, si considerava ancora in Fausta la cerimonia del rivestimento di foglie che spettava al vincitore della gara podistica e Pitagora consigliava agli amici di partecipare pure a quella gara, ma di non vincerla. Il bue della vittoria mangiato al banchetto nell'aula del consiglio era evidentemente un surrogato del re, come accadeva nelle bufonie ad Atene. Olimpia non è una località micenea e pare dunque improbabile che i miti pre-Achei vi fossero stati importati da Creta. La loro origine deve essere pelasgica.